Membrana Amazônia Exotrim, Filon, Transmitim e Clandestino Tido. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo per te. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Clandestino Cid. Questa sera una puntata molto sentita, perché sarà l'ultima della serie. Dopodiché il nostro clandestino se ne andrà in vacanza per un po', per schiarirsi un po' l'idea nelle magiche acque del Golfo di Squillace. Niente togliendo agli altri mari, ma Peppe più tardi ricorderà la bellezza di un mare. Cosa vuol dire per noi essere sul Golfo di Squillace? Comunque, andiamo a salutare tutti gli ospiti qui, chi mangia, chi studia, non si capisce niente. Comunque, stasera nostre special guest direttamente dall'Albania, iniziando dalla mia sinistra abbiamo Clinton e Elvana. E poi immancabile sala macchine, il mitico Peppone. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Se la macchina sarebbe un computer con un microfono collegato. Vabbè, passo di nuovo a Cicci. Come sei sexy stasera. Comunque, abbiamo anche altri ospiti, quale dalla Polonia c'è Alessandra, dalla Spagna Gonzalo e Lorenzo, ormai i nostri indignati speciali. Salutiamo Tarlo da Roma e direttamente da Borgia, Piero da Borgia. No. E salutiamo naturalmente il lanazzo di Gigi Falco con il prossimo pezzo. Andiamo avanti, Peppe, suona. Thank you. aguanta, tanto calor no se puede aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va la terremoto, se mató su niña en moto. ¿Y si vos crees que está de mal? Dime tú quién te cobra. Ya se ha terminado, al sindicato ya se lo han cargado. Oh, oh, oh. Guayaquil, sí. Gana los sueños peruanos, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mandaré. Y si te encargas colombiano, de un balazo lo mataré. Bellissimo pezzo di Manu Chao questa sera 22:19 Clandestino Cid. Ricordiamo i contatti per interagire con noi, il nostro contatto Facebook per naturalmente fare delle domande ai nostri ospiti e interagire direttamente con Clandestino Cid e Clandestino Cid, oppure sul nostro contatto email che Peppe naturalmente ringrazia per le grandi i grandi influssi di mail che sono arrivati. Lui naturalmente è pronto a leggere anche quelle che arriveranno nei mesi estivi, perché comunque poi faremo una rassegna per quanto riguarda l'inizio di settembre. L'indirizzo email è clandestino.cid@gmail.com, oppure sul nostro contatto Skype clandestino cid. Ok, andiamo alla volta della scoperta dell'Albania. Sì, in un certo senso Clandestino Cid, dopo aver preso l'aereo dal Guatemala, è arrivato in Russia con la Transiberiana. Peppe si è divertito tanto. Stasera si scende un po' sui Balcani, dai. Sì, bella. E quindi iniziamo con i nostri ospiti e chiedendo subito da dove venite e cosa fate nella vita. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, io sono Cliton e vengo dall'Albania, dal centro sud, un paesino che si chiama Berat. È un paesino abbastanza antico e fa parte dell'UNESCO, ha una storia lunga 2400 anni ed è ben noto, insomma, per le sue bellezze caratteristiche che ereditiamo. Niente, io sono qua da un bel po' di anni in Italia e studio ingegneria e guida, purtroppo, per fortuna. Però per fortuna, insomma, siamo quasi all'ultimo della specialistica, stiamo per finire, quindi insomma fino a mo' è andato tutto bene, ringraziando Dio. E quindi passo la parola all'altra invitata, la nostra bellissima Elvana. Buonasera, io sono Elvana, vengo sempre dall'Albania, da una città chiamata Lezhë, che viene composta da 30.000 abitanti, piccola come città. Mi trovo qua a studiare, studio giurisprudenza, da un bel po' di anni che mi trovo qua. Perfetto, allora, una domanda, come mai avete scelto l'Università della Calabria? E le prime impressioni appena siete arrivati qui, tipo con la gente del posto, le prime impressioni, diciamo? Allora, la mia storia inizia molto prima dell'Università della Calabria. Insomma, sono venuto con un gemellaggio fatto dalla Caritas con le partite del Vescovo di Lungro. Dopodiché, quindi ho iniziato a studiare già dalla terza media in Italia, in un paese che si chiama Castellari. E poi dopodiché ho conseguito il studio di liceo scientifico e poi mi sono iscritto all'Università Radicale perché ero in zona con persone di età diverse, quindi l'unica comunque è un'università molto prestigiosa, grande, quindi ringraziando comunque tutte le persone che conoscete perché mi sono trovato benissimo e mi sono integrato anche alla grande. E niente, poi insomma sono qua dopo un bel po' di fatica insomma con questa bella ingegneria edile che è bella faticosa tutto qua. Sì, allora perché ho trovato qua casualmente in un pranzo si parlava dell'Unical, sempre mi trovavo in Albania e dopo di che mi è parlato bene e io ho fatto questa scelta di venire qua e nonostante tutto mi sono trovata bene. Le prime impressioni appena siete arrivati, dire dove siamo arrivati, che posto è l'Italia, non lo so, come l'avete vissuta? Le prime impressioni non lo so perché comunque ero abbastanza piccolo, avevo malapena 12-13 anni, quindi diciamo, per fare delle impressioni forse era un pochino prestito. E quindi, però per essere diciamo, a quell'età diciamo, era visto come una specie, insomma, il bel paese, ecco, per racchiudere in una parola, anche se direi una volta il bel paese. Allora, le impressioni erano ottime già dall'inizio, mi sono trovata bene. Ok, Tony ricordava il bel paese, quello dell'Alga Galbani, dei formaggini, il bel paese. Il paese della Galbani. Ok, passiamo subito alla rassegna del primo pezzo musicale che hanno portato i nostri ospiti. Tony, ce lo presenti? Mettiamo un folcloristico di matrimoni e quindi anzi un ballo diciamo del Kosovo che è un pezzo folcloristico che è molto ascoltato, rappresenta abbastanza diciamo e diciamo questo parla, cioè noi comunque con il Kosovo abbiamo diciamo in comune la lingua che, e quindi diciamo si parla un po' dell'integrazione del Kosovo insieme con l'Albania, quindi diciamo di questi balli che ci accomunano con il Kosovo e diciamo sono dei balli folcloristici tipici insomma di quella zona tra Albania e Kosovo. Beqari, ne do të vazhdojmë në këtë rini dhe do likush që ti ngrem je si kur zan në kanë zili se marto e mine të dy i dhe vale në lumeja ime i dhe vale në ti o moj sorgale vale, vale shqy përtare një beqar ke për të marë. Por, you're not here. fantastica la musica dei Balcani, fantastica, meravigliosa. Magari un giorno, se Peppe si sposerà, sicuramente chiamerà qualcuno per deliziare le orecchie degli invitati della musica. Comunque si parlava un po' della... facciamo un po' un passo indietro, sì, della storia dell'Albania. È stata una terra comunque parecchio... cioè ha avuto tantissime etnie diverse, diciamo, tra imperi, dal greco, bizantino, romano, ma lascio la parola a Tony che ne sa più di me. Diciamo più che etnie, ci sono state parecchie, diciamo, imperi che l'hanno sottomessa, quindi diciamo a iniziare, insomma, dal medio, insomma, per farlo un po' breve, insomma, la storia dal Medioevo, c'è stato l'Impero Ottomano dal 1400, che siamo stati sotto l'Impero Ottomano come gran parte dei Balcani fino al 1912, l'anno in cui è stata proclamata l'indipendenza dell'Albania. Poi dopodiché, diciamo, c'è stato il periodo di transizione delle due guerre mondiali e poi c'è stato, diciamo, Mussolini dal 42-43 e poi dal 43-44 ci sono stati i nazisti. Ecco, e poi dopodiché è stato preso in mano il governo al dittatore Hoxha, Enver Hoxha, che diciamo, poi ha avuto, diciamo, diverse influenze filo russe o fino al 68, dopo è passato, diciamo, quelle filo cinesi, alla dittatura filo cinese dal 68 fino all'85-90, insomma. Poi fin quando, insomma, è caduto nel 1991 e dopodiché, diciamo, è stata proclamata come Repubblica Democratica Albanese. Ci andava di commentare questa frase, la religione degli albanesi e l'albanesità. Questa, diciamo, che è una frase abbastanza forte, perché, diciamo, per quanto riguarda la religione, essendo stato, diciamo, l'Albania sotto l'Impero Ottomano per 500 anni, nonostante tutto, ecco, diciamo, è riuscito a conservare le proprie tradizioni e le proprie abitudini, nonostante, diciamo, essendo stato, diciamo, sotto 500 anni. Quindi per questo, diciamo, questa frase, la religione dell'albanese, l'albanesità, ecco, perché oltre al musulmanesimo, come si chiama, all'Islam, che ha portato l'Impero Ottomano, c'è l'influenza, diciamo, nel nord Albania, che sono i cattolici. Poi c'è nel sud, invece, c'è l'influenza dell'ortodossia greca e poi un po' dappertutto sono sparsi i musulmani, che, insomma, opera dell'Impero Ottomano, che purtroppo imponeva che o diventavi musulmano o se no caput. Attenzione, Vanna ha qualcosa da dire, contraddice. No, in qualche modo imponeva che i cittadini si trasformassero in per il fatto che poi si trova nel pagare, diciamo, delle tasse molto elevate. Proprio per questo tutt'oggi l'Albania si trova ad avere almeno più, insomma, 62% della popolazione rappresenta questa religione. Quindi, cioè, io tipo la religione in generale, vabbè, non giudico chi comunque crede e non crede. Non mi piace in generale così quando diventa mezzo di distinzione sociale, però riconosco qualcosa, tipo le opere d'arte che nascono dalle varie religioni. Quindi immagino che in Albania ci saranno comunque tantissime opere svariate di tantissimi, comunque, periodi diversi, no? Sì, vi racconto un piccolo particolare. Solo nel mio paese, che, diciamo, possiede un castello che è l'unico abitato nei Balcani ancora oggi. Invece no, ci sono delle famiglie che sono abitate, perché è come un quartiere circondato dalle mura, insomma, di protezione, che era, diciamo, il fulcro, il paese vecchio, diciamo così, e poi si è sparso sotto, oltre le mura, ovviamente. Però insomma, in quel quartiere ci sono solo in quel quartiere che è bellissimo, comunque ci sono, abitano intorno a 1000-2000 abitanti, così, no? Un piccolo paesino. Ci sono solo in quel quartiere 40 chiese che sono piccolissime, comunque non sono, diciamo, delle cattedrali enormi, perché sennò non ci sarebbero spazi per ospitarle, però ci sono, diciamo, 40 chiesette piccoline, tutte conservate con cura sia del Ministero dei Beni Culturali e oltre che dall'UNESCO. Un'altra cosa per quanto riguarda la religione non è il fatto che da noi viene vista troppa questa distinzione, perché tipo un esempio concreto riguarda proprio la mia famiglia, dove una buona parte della famiglia viene rappresentata dai cattolici e l'altra parte dai musulmani, però si vive in armonia assoluta su tutto. E questo è il fatto positivo. Con l'augurio di salutare un giorno magari con Peppa, andare in Albania, che mi dicevano anche se mangia delle gustosissime pietanze, passiamo con il pezzo di Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si dà. Si ritorna in studio sotto le stelle qui Clandestino Cid. Appunto, magari anche Battiato voleva in questo pezzo riassumere quello che hai detto tu, è vana il senso proprio della multietnia, quasi una Big Apple, l'Albania vista come una Big Apple americana e europea, diciamo. Raccolgo tipo una parentesi che è un dolore anche atroce per il mondo musicale. Ricordiamo oggi l'addio di John Lord, il tastierista dei Deep Purple. Purtroppo per un cancro al pancreas, una grave perdita per il mondo del rock. Sì, condoglianze ai familiari e speriamo ci possa ascoltare anche lui. Ritorniamo al tema Albania. Abbiamo fatto un passo nella storia, spiegazioni comunque cronologiche sui vari imperi che hanno governato l'Albania, e passiamo appunto a parlare comunque del periodo comunista, che comunque è quello magari più attuale, che avete anche in minima parte vissuto voi, no ragazzi? Pochissimo. Comunque magari... sì, quello che vi è stato detto, comunque, dato, perché è una cosa molto tipo i vostri genitori già l'hanno vissuto in pieno, quindi vi è più vicino, è una cosa più fresca. Prego. Allora, diciamo che quello che ci è stato raccontato, diciamo, dai genitori, anche perché vabbè, io l'ho vissuta, quel poco che ci è stato detto, raccontato, io diciamo che quello che ho vissuto ero all'asilo, quindi... Potete immaginare quanto, diciamo, abbia vissuto il comunismo. Però poi comunque, diciamo, con gli anni mi sono fatto una cultura, e curiosità personale, mi sono fatto delle ricerche, dei video, documentari, tutte queste, diciamo, queste informazioni e insomma ho visto cose comunque non tanto belle, qualcosina positiva, ma abbastanza non era, diciamo, quella visione utopistica del comunismo è troppo lontana, perché comunque la dittatura poi è abbastanza, cioè è abbastanza facile passare da un governo comunista a uno dittatoriale, perché tutto il potere è concentrato nelle mani di una sola persona, per cui poi interessi personali poi prevalgono e quindi alla fine poi insomma si sono combinate, diciamo, cose abbastanza, insomma, poco piacevoli, ecco. Non lo so, io non mi ricordo, perché potevo avere pochissimi anni, 4 anni, dopodiché è venuta la caduta del sistema. Però da quello che mi è stato raccontato, più che altro sono le sofferenze dell'umanità che prevalgono per tutto quel periodo in cui loro hanno vissuto. Adesso mi hai ricordato una piccola storiella, tipo, perché purtroppo diciamo nei regimi comunisti, diciamo, tutto quello che viene è, come dire, insomma, degli stati autonomi, cioè tutto quello che viene prodotto all'interno viene consumato, cioè sono tagliati tutti i tipi di commercio con l'esterno e quindi tutto quello che viene prodotto dal governo, dallo stato, insomma, dal regime, quindi qualsiasi cosa, se si parlava malamente di qualsiasi cosa si rischiava di, insomma, la galera, perché tu secondo la loro interpretazione come indirettamente stavi parlando male del regime, quindi era una cosa, diciamo, è venuto comunque considerato come un antagonista, un ribelle, un qualcosa di, insomma, pericoloso, ecco. Anche se dicevi che la verdura oggi non è fresca e quindi si rischiava di brutto, ecco. Una specie di manipolazione totale dell'informazione su tutto. A proposito, due sere fa parlavamo della manipolazione intesa come comunque i media, no? In generale, no? Tu mi raccontavi di tuo nonno che ha raccolto tanti giornali, se magari ti va di raccontare quelle storie. Infatti una sera mi trovai con mio nonno, il quale da tempo conservava dei giornali nei quali veniva rappresentata tipo che il nostro Stato viveva in una condizione economica ottima, quando in realtà non era per niente vero, perché l'unica cosa che veniva assicurata a tutti i cittadini era un semplice lavoro. Si dovevano accontentare più che altro e... la condizione non era ottima, e in quel giornale si rappresentava, tipo, veniva scritto che l'America era quella che si trovava peggio di noi, che erano affamati, si trovavano per strada, quando in realtà erano tutte informazioni per evitare che la gente non andasse fuori del paese. del periodo fascista? Dal periodo fascista è un po' difficile, insomma, perché non, cioè, nel 43 non ho nessuna informazione, oltre che qualche testimonianza ce l'ho di questi paesi arbres, perché essendo, diciamo, avendo vissuto tra San Basile e l'Ungro, ci sono tanti arbres che mi raccontavano che hanno combattuto la guerra, insomma, la seconda guerra mondiale, quindi si sono trovati la maggior parte in Albania. E per come mi raccontano, perché ogni volta che appena dico che sono albanese, subito, diciamo, si precipitano a raccontare, insomma, le loro storie, che sono stati in Albania, che si sono trovati benissimo, che la gente li ospitava, che... E oltre, poi devo aggiungere che comunque nel mio paese c'è pure un bellissimo ponte costruito proprio da Mussolini, perché comunque Mussolini ha investito in Albania, perché era un punto strategico per, diciamo, poi entrare nei Balcani, quindi doveva, diciamo, le infrastrutture di, diciamo, le strade, insomma, ha costruito belle cose, ecco, che sono rimaste ancora oggi. Tipo anche il comune di Tirana è costruito, che ci sono ancora le torrette di guardia, che è tipico, diciamo, di Mussolini all'epoca, quindi ancora oggi vengono conservate, che il comune è funzionalissimo anche oggi, quindi è questo ponte che nel mio paese è pure molto bello, poi fra poco te lo faccio vedere. Perfetto, lancio la palla a Peppe, considerazioni su quello che si è detto, Peppe, di la tua, dai. Vabbè, le considerazioni facciamo dopo, ora mandiamo un pezzo. Mandiamo un pezzo di Led Zeppelin. But got him at the evil wall. Eccoci ritornati qui in studio, diciamo, fuori, diciamo, all'aperto di Clandestino Cid, con i nostri ospiti dall'Albania, con Ciccio Marino con i suoi capelli ricci, con Alessandra e con tutti gli altri qua, tanta gente. E volevo collegarmi un attimo sul discorso che faceva il nostro ospite sul regime di Mussolini nell'Albania, che è durato poco, un anno per fortuna. In Italia è successo un fatto abbastanza strano, diciamo, mi ha lasciato un pochettino stupito. In Emilia Romagna, un paesino di nome Gualtieri, vogliono intestare una scuola a Benito Mussolini perché vi insegnò in questa scuola. Ora, intestare una scuola a una persona che ha fatto del male in Italia, un dittatore che ha ucciso un sacco di persone, che ha portato la dittatura in Italia, mi sembra una idea alquanto assurda, che non deve esistere questa cosa in Italia, né in nessuno stato del mondo. Clandestino Cid è antifascista, è anti... Siamo contro ogni regime, ogni forma di regime, contro ogni discriminazione del diverso. Quindi il fascismo predicava questa ideologia e quindi noi siamo antifascisti. E volevo fare una domanda ai nostri ospiti. Come pensereste voi, cosa pensereste voi se in Albania intestassero una scuola al dittatore che vi ha oppressi per tanti anni? A parte che ce ne stanno già parecchie intestate, quindi diciamo, oltretutto, diciamo, c'è addirittura una montagna nel mio paese che ci sono lì, c'è il suo nome praticamente, con delle pietre enormi, grandi, con una casa, che non so come hanno fatto a portargli là su quella montagna, perché diciamo, c'è una leggenda che questa montagna sta come delle specie di collinette che diciamo, è formata da una collinetta in serie. E su ogni collinetta c'è una lettera del nome del dittatore. Quindi quelle sono delle pietre bianche che non si riescono né a cacciare né a distruggere, né, ed è rimasto, e ancora oggi il nome suo è rimasto là. Quindi già ce ne stanno parecchie cose con il suo nome. Se oggi intestassero altre cose nuove al suo nome, non lo so, non credo che ha lasciato un bellissimo ricordo, ecco, quindi non lo so, cioè, credo che comunque non faccia molto piacere. È quello che sta succedendo qui in Italia, secondo me comunque era solo una provocazione di qualche neofascista, che ancora in Italia è piena di questa gente che esalta il regime che abbiamo subito, purtroppo. Ciccio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, vorrei aggiungere soltanto che, a parte che appunto Clandestino Cid e ognuno di noi penso sia contro ogni forma di regime totalitario, anche perché ai tempi attuali se ne pagano ancora le conseguenze. E poi c'è cioè, una cosa del genere, a parte che tutte le vittime uccise dal regime, ma anche quelli della resistenza stessa, Peppe, non mi sembra un ragionamento valido, perché comunque cioè, fatti passare magari 100 passi avanti, con un gesto del genere si distrugge tutta una storia che c'è dietro a questi fatti davvero ignobili. Anzi, si va a esaltare ancora di più la figura di un folle. Quindi non lo so, sono contrario, sono veramente contrario, anche indignato di questa situazione. Passiamo un altro pezzo in albanese, Peppe. Sì, ascoltiamo un pezzo comunque del mio paese, di Berat, che sono, diciamo, canta per la virtù e le bellezze di questo paese meraviglioso. We'll be right back. state berati, si ti sta anche te sati, a tanate ne bandite, per soci ne bărște bine, că ta suna te berati, si ti sta anche te sati. Buonasera e ribenvenuti a questa nuova di Clandestino Chill. Siamo in diretta con i nostri ospiti from Albania e ci stanno illustrando questa magnifica terra con delle bellissime spiagge, anche dei bellissimi posti, dopo aver percorso un bel periodo storico che comunque va dall'impero ottomano, diciamo, ai giorni nostri. E a proposito, perché io, caro Tony, ho parlato già con Vana giorni fa, quindi mi sono informato bene, e tipo, a livello contemporaneo, diciamo, come si vive adesso in Albania? Ok... Allora, mo già cominciamo a buttarla sul politico e già cominciamo a essere un po' Diciamo momentaneamente l'Albania passa un periodo di transizione dopo, diciamo, la crisi mondiale, come diciamo, è stata sentita in tutti i paesi, diciamo, del mondo, e non poteva essere anche in Albania, insomma, essendo comunque un paese in via di sviluppo, e quindi diciamo, si è sentito anche là purtroppo questa crisi. Adesso siamo comunque in una via di ripresa e stiamo facendo dei passi in avanti per, appunto, per l'integrazione nell'Unione Europea, e si vedono comunque dei bei miglioramenti, e nonostante, diciamo, anche se sulle idee politiche con Vana siamo un pochino, diciamo, in contrasto, però nonostante ciò comunque il bene dell'Albania le vogliamo entrambe, le vogliamo entrambi, quindi... E, diciamo, al momento è purtroppo, cioè, come dire, l'Albania passa, come dicevo prima, è un periodo abbastanza simile all'Italia, quindi diciamo ci sono periodi di sacrifici, di tasse, di, insomma, è abbastanza, come in Italia è abbastanza difficile arrivare a fine mese, anche là purtroppo ci sono parecchie famiglie che devono, diciamo, tirare la cinta, come si suol dire alla paesana, no? E quindi, diciamo, niente, si va avanti così, e speriamo che questo periodo di transizione finisca il più presto possibile, perché diciamo tutti quanti vogliamo un futuro migliore, sia per noi stessi e anche per i nostri familiari, ovviamente. Passo la parola a Vana, così vediamo, perché lei è un po', diciamo, introdotta un po' meglio nella politica, quindi sa un po' meglio, saprà dire qualcosa in più rispetto a me. Allora, io più che altro faccio sempre il paragone con quello che c'era una volta, diciamo, della vita che si trattava più di 20 anni fa con quella che si svolge oggi, e c'è da dire che è molto molto molto meglio. Perché è vero che si tratta di capitalismo, chi è più capace dell'andare avanti, sì, però le possibilità sono maggiori nei confronti di tutte, e più che altro pure per il fatto della crisi in cui si trova tutto il mondo, anche l'Albania sta cercando di andare avanti, nonostante un paese che sono 22 anni che è uscita da un regime dittatoriale. Per il resto, diciamo, il mio discorso, diciamo, va sulla stessa linea con quella di Tony. L'altra volta parlavamo a livello giovanile, no? E vuoi commentare quello che dicevamo l'altra volta? Nonostante il tempo, gli anni se ne vanno, diciamo, anche una buona parte di quello che rappresentano l'Albania sono rimasti sempre gli stessi, come succede anche nel resto del mondo, che certi posti non vengono ceduti, non è che viene dato così tanto spazio ai giovani, alle nuove idee, a tutto quello che loro possono costruire, però dai, pian piano ce la faremo. Perfetto, pian piano ce la faremo. Peppe, tu vuoi aggiungere qualcosa? Niente, vabbè. Mi interessa questo fatto dei giovani, perché comunque anche qui in Italia c'è chi, come ha detto prima Peppe, del fatto anche della scuola, intestarla magari a magnificenze antiche, come vengono sottolineate da determinati, sì, da determinati soggetti, purtroppo sono anche dei fatti negativi. Niente, a livello, parlavamo a livello attuale, a livello attuale io non sapevo tipo il fatto del permesso di soggiorno, se lo volete commentare. Purtroppo adesso andiamo su tasti dolenti, diciamo, il permesso di soggiorno, perché vorrei raccontare la mia situazione abbastanza simpatica, che io mi trovo in Italia da ben 16 anni e... dice, dal lontano 96 che sono in Italia, perché ho iniziato, diciamo, come ho raccontato prima, la mia carriera di studi in parte dalla terza media, quindi ad arrivare fino all'università, e diciamo che ogni anno io sono costretto a rinnovare il mio permesso di soggiorno per motivi di studio, e però la legge in Italia, diciamo, dopo 10 anni dovrebbe concedere la cittadinanza. Quindi, diciamo, io dopo 10 anni ho fatto questa richiesta, però nel frattempo il magnifico la magnifica legge Bossi-Fini ha, diciamo, ha cambiato, diciamo, le regole. Quindi nel frattempo che io facevo la richiesta per la cittadinanza, diciamo, le regole erano, insomma, erano cambiate, quindi erano oltre 10 anni, diciamo, di residenza che non bastavano ormai più, oltre davvero anche una fedina penale pulita. Ci volevano 3 anni di lavoro, di busta paga, oltre che di contributi, e in più al momento della richiesta ci serviva, insomma, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cioè, al che mi sono messo un po' sinceramente a ridere, perché ho detto: ma come mai? Cioè, in Italia ci sono persone, conosco persone che purtroppo da 50 anni lavorano nel precariato, cioè ancora non sono sistemate dal punto di vista lavorativo. Cioè, come può uno straniero possedere un contratto a tempo determinato? E quindi è il questore, anzi il prefetto, e ha cominciato a ridermi un po', diciamo, in faccia, e dire che le leggi ovviamente non le faceva lui, però purtroppo questa è la realtà. Beh, su questa, sulla leggi del Parlamento italiano si potrebbe parlare per anni interi, sulle cose assurde che c'erano in Italia, come questa qui del permesso di soggiorno, che secondo me non dovrebbe proprio esistere il permesso di soggiorno. Uno deve essere... ognuno può andare dove vuole, secondo me. Uno, se vuole andare in un posto, ci va. Perciò la nostra trasmissione si chiama Clandestino, appunto per questo. Clandestini non esistono, i clandestini siamo tutti. Noi andiamo dove vogliamo, chi se ne frega delle frontiere, dei permessi di soggiorno. Purtroppo però dobbiamo vivere con questa pesante fardello sulle spalle del permesso di soggiorno, che, come hai ben spiegato tu, in Italia è quasi impossibile ricevere. Devi lavorare in uno stato che la disoccupazione è alle stelle, specialmente quella giovanile. Però invece le banche stanno bene, perché il nuovo premier Monti, che è il commissario, diciamo, non è un premier, è stato nominato dal Presidente della Repubblica, e ha salvato le banche, perché è stato messo apposta dalla BCE per salvare queste banche. La popolazione purtroppo invece rimane la disoccupazione, vanno le fasce povere aumentano in Italia, e purtroppo la gente deve pagare tasse come l'IMU e altri milioni di tasse che sono state istituite appunto per salvare queste povere banche che stavano fallendo. Usiamo il termine spread come uno spauracchio, come si diceva ai bambini: viene l'uomo nero. In Italia si usa: arriva lo spread, quindi dobbiamo mettere la tassa. Quindi, ma queste belle leggi che hanno messo i nostri Bossi e Fini, come un'altra legge assurda, è quella sulla parificazione delle droghe pesanti con le droghe leggere, che è stata messa dallo stesso governo. Quindi se tu ti fai di cocaina sei la stessa cosa di una persona che si fuma una canna. Diciamo che anche questa mi lascia un pochettino imbarazzato. Voi come la pensate su questo? Insomma, per il fatto che studio giurisprudenza mi trovo sempre tutti i giorni nel consultare nuove leggi, le quali contraddiscono le altre. Questa è la situazione italiana per il momento. Poi la cosa bella dell'Italia è che le leggi italiane si dovrebbero basare sulla Costituzione italiana, quella che è stata scritta dai partigiani, in pratica, nel 1946. La Costituzione italiana purtroppo oggi viene calpestata, e le leggi che vengono emanate dal nostro Parlamento sono molte volte in contraddizione di questa legge. Nella legge italiana c'è una gerarchia, diciamo. La Costituzione è quella più alta, gli altri dovrebbero attenersi a questa. Però secondo me i nostri parlamentari non sono laureati in giurisprudenza, quindi non lo sanno. Però già, dai, è stato già fatto un passo in avanti, che siamo passati dalle leggi ad personam, ad hoc almeno, diciamo, queste si sono superate oramai, quindi, diciamo, è stato già fatto un passo in avanti, no? Ora prima c'erano le leggi ad personam, ma ora ad bancam, non lo so come si dice in latino. Vabbè, mandiamo il prossimo pezzo, un pezzo di Vecchioni. Aspettate un attimo. Andiamo un pezzo di Vecchioni che è Samarcanda. Siamo ritornati qui, sempre sotto le stelle, sotto... forse no, stasera non siamo sotto le stelle, siamo sotto una trave, diciamo. Non è il greco-romano, risale agli anni 70. Allora, torniamo un pochettino senza seri. Volevo parlare delle condanne dei... Sì, è un argomento serio la trave, hai ragione. Senza trave saremmo caduti per terra. A Genova nel 2001 c'è stato il G8. Ora, dopo 11 anni, sono state emesse le sentenze. Le sentenze che hanno condannato 8 giovani a 100 anni, 10, scusate, 10 giovani a 100 anni di somma di pena. Questi giovani sono accusati di devastazione, mentre i poliziotti che hanno massacrato 60 ragazzi nella scuola Diaz sono, dopo 11 anni, hanno avuto piccole condanne lieve, alcuni sono state gli è stato tolto il servizio, alcuni sono stati promossi, questa qua è la condanna, sono stati promossi molti di loro perché hanno massacrato dei giovani che stavano dormendo in una scuola. Li hanno massacrati più giorni, 3 o 4 giorni di fila. Tempo fa in Più Dubbio abbiamo anche proiettato un documentario, Black Block si chiama questo documentario, parlava di questi pericolosissimi giovani che erano andati a Genova a manifestare contro gli 8 potenti del mondo che si erano riuniti per decidere le sorti dell'umanità senza il consenso di nessuno. Nessuno aveva li aveva eletti, non lo so, delegato per riunirsi. Loro si sono riuniti e, siccome si sentono gli 8 più forti al mondo, sono le 8 potenze mondiali che governano questo nostro pianeta, hanno deciso di riunirsi e decidere cosa andava bene e cosa andava male. A molti giovani provenienti da tutto il mondo questo non andava giù e quindi sono scesi in piazza a Genova a manifestare pacificamente. E in televisione però ci hanno fatto vedere soltanto i pochi individui che distruggevano vetrine, bruciavano macchine, quindi tutti quelli che vanno a fare la manifestazione sono cattivi, tutti bruciano macchine, tutti distruggono negozi e tutti sono black bloc. E questi giovani sono stati accusati di danno perché hanno rotto qualcosa, invece questi poliziotti che hanno rotto ossa, hanno rotto facce, hanno rotto nasi, hanno massacrato questi giovani, sono intoccabili perché sono poliziotti. L'altro giorno leggevo su internet, c'era il paragone fra due notizie. Un poliziotto ha rubato 100 euro da non so dove e l'hanno perdonato perché è giovane e inesperto, c'era scritto. Mentre un rumeno che è 25enne, è entrato dentro un negozio, ha rubato una cioccolata, è stato condannato a 5 anni. Giusto perché era rumeno, quindi i rumeni sono cattivi, tutti gli immigrati sono persone cattive che vengono qui a rubare, a uccidere. Questi qua purtroppo sono i media italiani che fanno passare queste notizie, come ricordiamo Studio Aperto, che è il grande telegiornale di Italia 1, che ogni giorno fa pressione mediatica sugli ascoltatori inculcando queste notizie, dicendo che gli immigrati sono tutti cattivi, gli immigrati rubano, uccidono, mentre gli italiani sono tutti buoni e bravi. Diciamo che ci sono cattivi in ogni nazione e ci sono i buoni in ogni nazione. Ci sono gli italiani che rubano, uccidono, ci sono i rumeni che rubano, uccidono, ci sono gli albanesi che rubano, che uccidono, ma ci sono i medici albanesi, ci sono i medici rumeni, ci sono un sacco di persone buone in tutto il mondo che questi qua passano in secondo piano perché non fanno notizie. Invece se uno commette un reato passa subito in primo piano. E voi come la vedete questa situazione? Beh, non è proprio una situazione bellissima, diciamo così, cioè, perché vivendo da ormai da parecchi anni in Italia mi sono trovato di fronte comunque a episodi e a situazioni a dover sempre, diciamo, chiarire, insomma, cercare di dire alle persone che non bisogna mettere, diciamo, o fare di tutta l'erba un fascio, diciamo così, no? E perché ogni volta, diciamo, mi sono capitato parecchie volte che ho, diciamo, fin quando io parlavo in italiano, cioè non se ne accorgeva magari che ero straniero, però appena mi ripresentavo che dicevo che ero dall'Albania, subito, diciamo, qualche sguardo, diciamo, o titubante, un po', diciamo, sospettoso, subito ne veniva fuori. E quindi, diciamo, purtroppo per colpa, diciamo, di queste testate giornalistiche che, diciamo, hanno questo vizio di sbattere sempre in prima pagina un rumeno che ruba una cioccolatina, e, insomma, è come se avesse, diciamo, commesso un reato quasi di vita o di morte. E poi magari ci sono purtroppo i politici che rubano miliardi di euro e stanno sempre in Parlamento a dormire con i loro belli iPad e giocare a Super Mario magari a quant'altro. E questi, comunque, questi eventi risaltano ancora più l'efficienza della legge italiana, no? Come per dire, prima Tony tipo anche ricordava il fatto del permesso di soggiorno che va a spendere quei 250 euro l'anno. Sì, sono state aumentate pure le tasse, oltre a quello che dovevamo pagare una volta sono aumentate un'altra ottantina, 100 euro in più. Sì, perché questi, diciamo, 80 euro diciamo, per gli studenti, perché poi per i lavoratori arriva anche fino a 200 euro. E questo, diciamo, per, grazie a una legge Monti che ha messo, perché, diciamo, bisogna, diciamo, questi soldi che sono, diciamo, oltre i 250 e gli altri 80, proprio perché vanno nel fondo, non mi ricordo mo bene, però ho letto che questi soldi vanno a finire in un fondo che lo Stato italiano utilizzerebbe nel caso in cui dovesse, diciamo, rimpatriare qualche, tra virgolette, qualche assassino o qualche clandestino, e diciamo andrebbero a servire, diciamo, le spese per coprire appunto le spese per di rimpatrio di questi clandestini che vengono sorpresi a rubare i cioccolatini nel supermercato, ecco. Eh sì, a proposito, comunque leggevo una frase di Sandro Pertini che aveva taggato una ragazza su Facebook. Praticamente dice: quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via anche con mazze e pietre. E a proposito, Peppe, come non sottolineare il pezzo del parto, Raggia, che ci sta tutto, anche per i clandestini, pseudo clandestini che sono qui in Italia, e comunque per tutte le forme di razzismo. Clandestino ci dice no, speriamo che in futuro vada meglio per tutti. Suona, Peppe. raggia, tantissima rabbia, anche Spagna, perché si ritorna così a parlare dell'Indignados, che il 14 luglio praticamente i migliaia hanno invaso Madrid nella notte tra sabato e domenica. E cosa particolare, che insieme agli Indignados comunque si sono accorpati gli statali, e come per sbalordire il tutto, diciamo, anche le forze dell'ordine comunque hanno appoggiato il movimento dell'Indignados. Qualcosa di fantastico, direi, anche perché comunque è quello che si è cercato di fare anche a Roma, tipo sensibilizzare le menti anche di chi è dalla parte, diciamo, del Matador, in questo senso. È anche comunque il fatto che un poliziotto stesso, sì, in quel momento sta svolgendo il proprio lavoro, ma nel momento in cui si ritrova in piazza insieme a qualcuno che da tantissimi mesi sta cercando di far emergere una situazione ormai critica, diciamo che è un passo avanti che va segnato. Diciamo che secondo me dovrebbero prendere esempio un po' dappertutto, perché queste banche oramai si stanno dilagando, il potere delle banche come a macchia d'olio, e quindi c'è, cioè, la faccia della democrazia, come possiamo dire. Per cui c'è, cioè, tra Spagna, Grecia e Portogallo, secondo me la prossima dovrebbe essere l'Italia, e quindi, cioè, perché non se ne può più in questa situazione così. Cioè, perché i soldi, c'è, cioè, delle tasse, però poi questi soldi spariscono sempre come un pozzo senza fondo e non si reinveste niente per la popolazione, che purtroppo è costretta sempre ai sacrifici, ma senza doverne. E poi non è giusto, perché poi si è arrivata una situazione che, cioè, pur di salvare questo benedetto euro, l'Italia e la popolazione italiana è costretta a questi sacrifici per poter salvare, cioè, la crisi degli altri paesi. Cioè, ho capito la solidarietà, però penso che non è che può, insomma, cioè, essere destinati a una crisi e ai sacrifici infiniti senza dover vedere nessun tipo, cioè, né investimento, né risultato, né niente. Questa qua è una bellissima notizia dei poliziotti spagnoli che sono uniti al popolo. Finalmente, era ora che anche loro aprono gli occhi, i poliziotti, e si uniscono dalla parte del popolo e aiutino a sconfiggere i governi, perché i governi ormai sono diventati quasi come una dittatura. Sono mascherati da democrazia, ma in realtà in Europa la democrazia non esiste. Se, appunto, ritorniamo a parlare sempre delle banche, ma ormai c'è una dittatura di queste banche che, fino a che, se in pratica, se loro hanno bisogno di soldi, li prendono da noi, se noi abbiamo bisogno di soldi invece li dobbiamo mettere sempre noi. Quindi non ho capito perché. Cito sempre, io volevo citare di nuovo il fatto che è successo in Islanda. Prendiamo esempio dell'Islanda. Per l'ennesima volta la racconto questa storia, però è un fatto importante. In Islanda la popolazione ha detto no il pagamento dei debiti che vanno verso le banche, hanno fatto una vera e propria rivoluzione, hanno mandato i governanti a casa e hanno riscritto la Costituzione. E il debito hanno detto non ve lo paghiamo, perché non l'abbiamo fatto noi, lo pagano le banche che l'hanno prodotto questo debito. Purtroppo, ripeto, è sempre difficile paragonare l'Islanda a una nazione europea. L'Islanda è una provincia italiana, quindi più o meno come grandezza, quindi non è la stessa cosa, però si potrebbe prendere spunto da questo fatto. Cioè, il governo in Islanda, che comunque è uno stato, è composto da soli 12 componenti, cioè il gabinetto governativo è solo 12, quindi se la paragoniamo, non lo so, a una provincia o a una regione italiana, c'è l'assessorato regionale, non lo so quanti componenti c'è, già solo l'assessorato, figuriamoci poi il governo, cioè, quindi, cioè, siamo lontani anni luce da quei solo 12, diciamo, governatori. Vabbè, però i nostri sono più bravi, i nostri vengono pagati di più perché sono più bravi, fanno leggi migliori, perciò vengono pagati di più. Tra il trot e la minette non lo so, insomma, 10.000 euro al mese, cioè, rimarrei un po' perplesso. Anche giusto per ricollegare, visto che siamo in tema, c'è quella bellissima laurea del trot presa in Albania a questa università così magnifica, diciamo, che purtroppo io sono rimasto quasi allibito quando l'ho letta la notizia, cioè, ho detto, ma com'è possibile? Cioè, è quasi un'offesa avere il trotta come, diciamo, laureato in Albania, cioè, è una cosa davvero... Cioè, ho detto... E se non sbaglio sei diplomato a Catanzaro, no? Ho preso la doppia laurea, non mi ricordo. Questo non lo so dove si è diplomato il figlio di Bossi. Ci può essere che l'ha fatta Catanzaro e la sia stata... Come la russa. Come la Gelmini a Reggio Calabria, mi sembra. Comunque, volevo ricordare che qui all'Unical invece abbiamo avuto un grandissimo laureato. Si è laureato Silvio Berlusconi qua all'Unical. Sì, laurea d'onore in ingegneria gestionale. Voi non lo sapevate voi questo. Questa mi era sfuggita però, Bellissima notizia però. E a proposito di Berlusconi, che salutiamo, è da tanto tempo che... Ciao Silvio, è da tanto tempo che non veniva menzionato in radio. Precamente c'è una notizia di domenica 15 luglio che è data: anziani credono di andare in gita ma li portano al comizio di Berlusconi. Allora, capito Peppe, a insaputa di tutti, comunque... capito, sembrava che andassero in vacanza gli anziani, invece andavano a vedere un comizio di Berlusconi. Bella tattica, Peppe, va adottata. Ora lo faremo anche noi la prossima puntata di Clandestino. Diciamo che c'è un concerto e poi li facciamo assistere tutta la puntata di Clandestino, Cid, in diretta qui sul ponte dell'Unica. Comunque, Berlusconi alla fine mi sta pure simpatico, è bello, è giovane ora, è diventato più giovane. Non riesco a capire come fa, ogni giorno di più mi cadono i capelli, mi cresce la pancia, invecchio. Berlusconi ogni giorno di più diventa sempre più giovane. Forse il curioso caso di Benjamin Button, forse, che ringiovanisce ogni giorno di più. Può darsi. Beppe, io direi di andare avanti con la musica. Prima di farlo vorrei salutare un'amica che ci sta ascoltando, Stefania Campi, di Petrona. Andiamo. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, people turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Lemon Tree, l'albero di limone, Peppe. A Girifalco ce ne saranno tantissimi, no? Anche in Albania, ce ne stanno alberi di limone in Albania? Fate tantissimo limoncello, quindi. Sì. Pure granite di limone. Io sapevo che l'Albania è famosa anche per la grappa. Quella è la, diciamo, la bevanda nazionale molto tradizionale base, diciamo così. Anche se qua è considerata come un, diciamo, un digestivo, un amaro, un qualcosa del genere. Là invece è considerato come tipo il vino qua o la birra, diciamo, si accompagnano i pasti, ecco. A proposito di pasti e non pasti, passiamo alla rassegna delle vaticanate. Questa sera, salutando il nostro indignato speciale da Roma, Carlo, che stasera ci ha abbandonato, ma che è a Roma appunto per svolgere il servizio estivo. Comunque, leggevamo un articolo davvero scottantissimo. Il porno è un grande affare, un'industria che produce un fatturato stratosferico, un guadagno garantito al quale nessuno rinuncierebbe, nemmeno la Chiesa. Weltbild è una casa editrice della Chiesa tedesca che pubblica circa 2500 titoli di testi a luci rosse, precamente film porno. Dato ufficiale in quanto dichiarato proprio dalla rivista cattolica pure. Inoltre controlla anche il 33% di un portale che propone materiale pornografico. Weltbild ha anche il 50% di una società che produce film hard. Questo è il settore d'azione della casa editrice che la Chiesa tedesca sembra proprio non voler cedere dopo aver stimato l'importanza del business. Naturalmente ha voglia, no Peppe? Materiale pornografico ha voglia di chi se lo prende. Dopo aver dichiarato comunque di non voler cedere l'affare, c'è stata una netta marcia indietro e le varie partecipazioni azionarie saranno girate a delle fondazioni, chiaramente sotto il controllo della Chiesa, della Curia tedesca, dopo essere state incredibilmente nelle mani delle varie diocesi. Peppe, io direi che comunque 2 miliardi all'anno, mi dice Tony, che incassano per sti fatturati porno. E alla faccia comunque della castità, del vivere puro e di tutte quelle altre stronzate che dicono, tipo anche il nostro amico spagnolo, quel vescovo spagnolo che ne abbiamo parlato tantissimo, no? Tipo del fatto dei bambini handicappati, praticamente diceva che i bambini handicappati erano colpa, era il fatto che i genitori avevano commesso atti impuri prima di essere sposati. Io vorrei sapere adesso, magari se ci sta ascoltando qualcuno del principato lì, dello Stato, se vorrebbe commentare sta cosa, no? Tipo adesso in questo senso, predicano bene e razzolano male, Peppe, non lo so, è tutto un infangare. Sono indignato, Peppe, anche per il fatto che Lorenzo mi abbia staccato il computer. Infatti secondo me Lorenzo è un amico di quel vescovo là spagnolo. L'ha mandato lui, ti voleva censurare. Comunque vorrei sapere il fatto che questi film comunque non sono niente di impuro, alla fine mica ci sono, erano sicuramente film dedicati ai minorenni, dato che il Vaticano protegge i preti pedofili, li copre, quindi sicuramente erano film di pedofilia. No, scherzi a parte, diciamo che negli ultimi periodi sono successi parecchi casi di pedofilia dei preti e il Vaticano ha nascosto tutte queste porcate. Ultimamente non mi ricordo un cardinale il nome adesso, però mi ricordo la frase perché me l'ha lasciato molto impressa, insomma, quindi cioè, ha detto precisamente che è meglio avere dei preti pedofili che preti gay. Cioè, non lo so, mo ancora meglio forse averli, vabbè, non lo so. Meglio pedofili che gay, normale, certamente, meglio violentare un bambino di 2 anni che avere una relazione con una persona adulta come te. Mi sembra proprio ovvia sta cosa, diciamo che oppure un altro cartellone di una manifestazione di Gay Pride che c'era scritto per noi per la chiesa siamo diversi, è ovvio, a noi piacciono maggiorenni. Bella, veramente bella questo manifesto, l'ho visto pure io in giro per internet. Mi sembra che gli hanno fatto pure Berlusconi, cose del genere, quindi l'hanno riciclato. Non so chi ha copiato l'altro. Però penso che questi messaggi non hanno copyright, quindi sono sotto copyleft. Volevo innanzitutto, dico, la Chiesa, oltre a ricavare questi soldi da questa industria pornografica, riceve un sacco di soldi, diciamo, dall'8 per mille, e molti soldi illeciti passano per la Banca del Vaticano, lo IOR, ricordiamo che è una delle migliori banche che riciclano denaro sporco, a pari di Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Isole Cayman, forse sono un po' superiori agli altri. Dato che avere un conto nello IOR è quasi impossibile per una persona normale, diciamo devi essere uno tipo Andreotti, Berlusconi o roba simile per poter avere un conto in questo IOR. E tempo fa molti banchieri dello IOR sono stati fatti sparire, come Calvi a Londra, è stato sotto il ponte, è stato impiccato, questo è il genere. Il ponte dei frati. Perché forse avevano parlato, forse sapevano qualcosa che non dovevano sapere. All'epoca del pontificato di Papa Wojtyla, vero? Era sotto il pontificato di Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II. Calvi, no, era il Papa Giovanni XXIII, giusto? Il Papa Buono, ecco, detto il Papa Buono, perché è successo prima degli anni 80, diciamo, negli anni, a fine anni 70, così. Nel 78 c'era già Wojtyla, allora forse dovrei rinfrescarmi un po' la memoria. Diciamo comunque questi papi che vengono ricordati come persone buone, persone che hanno fatto del bene, hanno occultato anche loro questi omicidi, quindi non so se c'hanno proprio la coscienza pulitissima. Non lo so, vogliamo passare al prossimo pezzo dopo questi argomenti un pochettino pesanti. Vorrei mandare un pezzo, non lo so, andare un pezzo albanese oppure mandiamo questo Tallava. ti pse ndryshon. Bonat e që nuk të don. Shani se nuk ka. S'keni gjuti ta lava. Nuk ti në ban. S'ka njeri që se pëlqen. Dhe të ngënjen. Dhe tani vjen pjesa ime për të ruar që këndi. Unë e di se se ti shumë do. Ti shumë do. Siamo ritornati qui mentre Ciccio cerca un treno per andare a Praia Mare. Non so cosa ci deve fare. Devi andare a mare, Ciccio, a Praia Mare. Wow, vorrei tanto visitare st'isola di Dino, ne parlano tanti. Alla fine siamo sempre propensi ad andare all'estero, a Roma, a Pisa, a Firenze, a Venezia. No, del tipo anche a livello nazionale, no, a girare fuori regione, però almeno conosciamo prima la nostra regione, valutiamo il tutto e dopo magari andiamo fuori, no? Mi fa piacere pensare che la tua nazione è la Calabria e l'estero andare a Pisa, a Roma, a Firenze. Bellissimo. Diciamo che tu vuoi di nuovo il regno delle due Sicilie, il regno borbonico. Ci stava meglio quando si stava peggio e cose varie. Volevo allacciarmi al discorso, dato che qui abbiamo due ospiti albanesi. Volevo in Calabria, e in Italia, diciamo nel sud Italia più che in Calabria, ci sono molti paesi di lingua Arbresh. Diciamo che la provincia di Cosenza è quella che ce n'ha più di tutti. Qui abbiamo anche un esponente, il Pierpaolo, abbiamo qui il mitico. Un saluto pure ad Urso, ad Ursula che ci ascolta da casa, e a tutti i ragazzi di Pallagorio, e a mia nonna che è pure Erbrescia, la saluto pure, ma non penso che ci stia ascoltando. Questi paesi Erbrescia che sono nati in Calabria intorno al 1400-1500. Il primo mi sembra che è stato Caraffa, forse, non so se è vero, ho sentito questa voce in giro. E che in pratica sono fuggiti dall'Albania perché c'erano il mitico Skanderberg, che in ogni paese Erbrescia troviamo una piazza Skanderberg. E c'è la piazza, la via no. Hanno tutti la piazza di Skanderberg, che ha resistito agli ottomani. Però penso che ce ne puoi parlare meglio tu. Passiamo la parola a Skanderberg. No, che onore avere questo soprannome, insomma. No, Skanderbeg, diciamo che è uno stratega albanese, vissuto diciamo nei primi anni del 1400, ed è morto nel 1468, se non ricordo male, sì, giusto. Eh? Vabbè, il 2 marzo, mi suggeriscono 2 marzo, ma vabbè, io ricordo solo la data. Diciamo che è uno stratega molto forte, che è stato allenato, come dire, diciamo, dallo stesso impero ottomano, perché la tecnica e la longevità dell'impero ottomano è stato proprio perché, diciamo, dei paesi sottomessi andava, diciamo, a sottrarre i figli maschi da piccoli e li trasportava, diciamo, in Turchia. Tipo Sparta? Tipo... No, però Sparta aveva i figli e li mandava in guerra per proteggere, diciamo, il proprio paese. Invece l'impero ottomano, delle colonie, diciamo, dei paesi colonizzati, andava a prendere con la forza, diciamo, i figli maschi piccoli, diciamo, dall'età piccola, e venivano mandati alla base in Turchia, venivano cresciuti con, diciamo, e venivano trasformati negli strateghi, in soldati, e quindi venivano poi mandati in guerra per combattere, per colonizzare altri paesi. Per questo, diciamo, l'impero ottomano è durato oltre, diciamo, mezzo millennio. E Scandal perché era uno di questi bambini. Poi, insomma, dopo aver combattuto tante guerre per i turchi, ha capito. Vabbè, poi ha fatto, diciamo, per resistere, poi è tornato in Albania per fare resistenza all'impero ottomano, però per resistere, perché l'Albania era troppo piccola per resistere a un impero così grosso, ha fatto ovviamente delle alleanze con Federico II, diciamo il regno borbonico, per collegarsi, diciamo, con la Calabria, e oltre al regno delle due Venezie, no? E quindi, diciamo, ha contrastato i turchi per un 50 anni, mezzo secolo più o meno così, 25 anni, un quarto di secolo, che, diciamo, per essere un piccolo paese, quando riuscire a contrastare e sopraffare, diciamo, a caccia dei turchi, non è da poco, insomma, no? Salutiamo questo grande stratega, diciamo, della nostra patria. E poi, con la sua morte, ovviamente i turchi poi hanno avuto la meglio e poi, diciamo, se non ricordo male, la famiglia di Skanderbeg, diciamo, si è spostata a Napoli e ancora oggi, diciamo, i suoi discendenti sono a Napoli. E invece gli altri patriarchi, diciamo, quelli dell'alta civiltà, delle eliti, diciamo così, sono venuti in Calabria e si sono spostati verso l'occidente con l'avanzata dei turchi e si sono spostati, diciamo, ovviamente il primo paese poteva essere, se non la Calabria, o insomma il sud dell'Italia, e quindi hanno fondato tra Puglia e Calabria, e un paese piano degli albanesi in Sicilia, hanno fondato questi paesi albanesi, che hanno la caratteristica in comune che da tutti i paesi albanesi si vede il mare, perché proprio loro avevano paura di questi saraceni che addirittura venissero fino a, diciamo, in Italia per perseguirli. Quindi, diciamo, questi paesi albanesi sono fondati proprio, hanno dei punti strategici dove da tutte le parti hanno la visione sul mare, quindi, diciamo, un punto che li accomuna a tutti quanti. Ma curiosità, scommetto che non lo sapevi. No, mi stai proprio acculturando. Clandestino Cid vola stasera, nel segno della cultura. Grazie a Tony Albano. Sei sicuro di questo? Secondo me no. Ci sono alcuni paesi che non si vede il mare, alcuni paesi albanesi. Da Spezzano Albanese non lo vede il mare. Da Caraffa vede il mare. Da Acqua Formosa vede il mare. Da tutti i paesi, pure da Piano degli Albanesi. Sicuro? Controllerò e poi ti faccio sapere. Accetto la sfida. Ci giochiamo una bella birretta. Clandestino Cid sotto l'insegna proprio della cultura. Ci sono delle news, attenzione, forse Tony dovrà pagare la birra a Peppe. Qui dalla, diciamo, da, c'è un saluto ai turchi che ci hanno mandato un link, una ragazza turca qui ci ha mandato un link dicendo, aspetta, forse non è lei che ce l'ha mandato, vabbè, sì, lei me l'ha mandato. Dice che a Santa Caterina Albanese non si vede, da Cerzetto non si vede, che Valerizza non si vede, quindi dice che questo albanese, secondo me, ha mentito. Allora mi hanno detto questa curiosità falsa, allora mi hanno illuso, no, mi hanno buttato giù tutta la mia cultura. Guarda, a me sembra che il paese più vicino al mio paese, a Brescia, e Caraffa. Da Caraffa mi sembra che il mare non si veda, ma mi sto sbagliando, però. Ma vabbè, comunque, salutando il Pisti, il mio coinquilino, volevo mandare un pezzo, oppure vogliamo ancora parlare di questi Airbrush, che vengono erroneamente chiamati Gheggi, ma in realtà sono Tosk, che sono due dialetti dell'Albania, uno del nord e uno del sud. Lei è una Gheggi originale, ve la facciamo sentire ora. Sono io. Yamun. E io sono Tospers, sono dal sud dell'Albania, quindi siccome il Skanderbeg era del nord, e quindi diciamo erano la maggior parte sono quelli del nord che sono trasferiti, invece noi del sud toschi siamo più patriottici, quindi noi abbiamo sofferto e resistito ancora fino alla morte, diciamo, a questi benedetti turchi, per cui invece i Gege se ne sono scappati. Ma infatti c'è qualcuno che non sa la vera etimologia della parola gheggio, magari ha anche un significato, non lo so, di paura, gheggi, no? Quando vengono, dici, questa popolazione gheggi, invece alla fine sono due etnie, una dal nord e una dal sud, due dialetti alla fine. Peppe, passiamo alla musica. Dato che gli albanesi sono venuti qui in Calabria attraverso il mare, mandiamo un pezzo di Zucchero, Il mare impetuoso. Come diceva Zucchero, sesso, sesso, sesso, sono un assetato. Tu sei un assetato di sesso, Peppe? No comment. Perché, Peppe, scusa, è una radio libera, libera informazione, magari qualcuno vuole sapere, no? Faccio la domanda. Tony, tu? Mi associo a no comment. Magari individuate soltanto il lato negativo della domanda. La potevate intendere come l'amore, non lo so, così. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la questione, comunque, Gheghi vs. Tosh, non lo so. Tosco, scusate. Peppe, dicevamo comunque dei vari paesini che sono dislocati in Calabria. Tony, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, quello che avevo da dire me l'hanno contraddetto e quindi non voglio aggiungere più. Però sono convinto che comunque da tutti i paesi si vede il mare. Sto benedetto, non in high definition ovviamente, ma anche in un pezzettino piccolino, con un po' di attenzione e un occhio sopraffino. Sono sicuro che da tutti i paesi si riuscirebbe a vedere comunque. Comunque vorrei sottolineare che tipo qui all'Università della Calabria si studia Arbrecht. Comunque è una tradizione che si tramanda e si porta avanti anche a livello didattico magari. Sì, all'università infatti c'è addirittura il laboratorio di albanologia addirittura, quindi sono rimasto sorpreso, anche perché comunque devo fare i complimenti a questi piccoli paesi alberesi che continuano a conservare questa tradizione antichissima di almeno mezzo millennio, che ancora riescono, diciamo, anche se nei giorni d'oggi insomma, i giovani comunque è stato abbastanza bastardizzato perché è stato mischiato molto con l'italiano e quindi diciamo molti diciamo paesi, diciamo le parole in Arbrecht vengono italianizzate, diciamo, quindi però le nonnine conservano ancora questa tradizione, quindi continuano ancora a conservare questi diciamo questa bella lingua che io all'inizio quando sono arrivato facevo un po' di fatica a capirla perché bisogna un po' fare l'orecchio, come dire. Poi una volta però abituato l'orecchio, poi non avevo più diciamo la difficoltà a intendere, a capire. Cioè, poi vabbè, ovviamente loro fanno un po' di fatica a capire me, perché è come dire diciamo un italiano di oggi si mettesse a parlare con Dante, quindi diciamo la differenza comunque, perché l'evoluzione riguarda anche dal punto di vista linguistico un paese, per cui diciamo loro non capiscono meglio, magari però una volta abituato l'orecchio comunque capisco loro, quindi tutto qua. E dico, questa cosa anche nei tuoi riguardi, Ivana, dato che vieni, tu sei dal nord, no? Invece io faccio molto più fatica nel capirle. Va bene, Peppe, passiamo al tuo pezzo. Questa volta ce lo presenti tutto tu, Peppe, come sai fare, solo tu. Mi sa presentare dei pezzi che hai scelto tu, grazie. Io manderei un pezzo che mi fa sentire bene. James Brown, I Feel Good. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. So nice. So nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do nothing. spice. I feel nice like sugar and spice. I feel good, caro Pepe, I feel good. E ritorniamo qui sotto le stelle. Io vorrei ringraziare innanzitutto tutti i nostri ascoltatori, ma in particolar modo chi è venuto ed è accorso quando subito abbiamo chiamato qui in radio. E comincio comunque dalla Cina con Vittorio, Desiree, Yos, Isabella, Alessandro. Maria, Margherita, Manuel, Ivi, Diego, Adrienne, Bacuni, Maria, Olga, e per finire Vana e Tony questa sera. Dulcis in fundo, dice Tony. Comunque c'era un articolo molto curioso direttamente dalla Polonia, da Varsavia. Tattoo fatto di cicatrici in faccia, una nuova moda del rapper Popek. Praticamente c'è stato sto rapper che, forse stanco dei numerosi tatuaggi, alcuni un po' abbastanza estremi, come negli occhi, cioè aveva proprio... era fatto tatuare negli occhi, ha provato tipo la moda del scarification, cioè l'arte di farsi scarnificare una parte del corpo con la forma che più si desidera. È una porcheria totale. Comunque è la moda, Tony. Beh, oramai andiamo dalla moda più bizzarra. Però vorrei aggiungere, visto che c'è la nostra Alessandra da Polonia direttamente, proprio con furore, cioè, Alessandra, ma solo in Polonia possono succedere certe cose. Spero che non succedano a Pole, però, cioè, se no qua siamo davvero... Poi magari il prossimo anno ti vedremo con qualche tatuaggio molto bizzarro e non so come la prenderebbe Ciccio. Vabbè, sono delle mode, questo qua speriamo che sia qualcosa di passeggero, sta scarification del corpo. Peppe è rientrato dopo una piccola chiamata, non lo so Peppe, avevo un'altra notizia molto... molto sottolineata, Peppe, tipo si ritorna a parlare di TAV, questa volta a Bologna. Sabotata TAV a Bologna, praticamente due ganci che appaiono come una fiamma anarchico-surrezionalista. Sono stati appunto insurrezionalista, scusate, ormai la Von Faster ha preso il sopravvento su di noi. Praticamente sono stati tagliati sti cavi tra le province di Modena e Bologna della TAV. Niente, non so se voi avete sentito parlare del problema TAV che si sta vivendo, che sarà un altro abominevole, comunque perdite di... Sì, basso impatto ambientale per l'ambiente stesso e per l'inquinamento. E anche... i polmoni, molto rigenerante per i nostri polmoni. E anche per le popolazioni che purtroppo vivono queste terre. Si parlava del ponte che è stato costruito da Mussolini in Albania. Una via di comunicazione tra... diciamo una per la frontiera dei Balcani, no? Qui tra la Lione e Torino magari si intende la stessa cosa per la via dei commerci, ma è qualcosa comunque che non lo so chi sta al governo a decidere determinate cose. Dicono che comunque sì, soldi non soldi, ma la TAV si deve fare. Ma Visto che studio ingegneria insieme a edile, quindi nell'edilizia, siccome ci preoccupiamo molto delle costruzioni a basso impatto ambientale, questa è proprio una chicca, diciamo, proprio una ciliegina sulla torta che vorrebbero fare, ovviamente. Sì. Ma io suggerirei più il campo magnetico di questi, i treni che sono già stati brevettati. E raggiungono delle velocità molto elevate, addirittura fino a 2000 km orari, che si prospetta a Tokyo, New York in soli 2 ore, quindi c'è questo campo magnetico dove il treno ovviamente viaggia ad altissima velocità e non più a questi motori che inquinano l'ambiente, oltre che per costruire tutte queste opere farebbero dei gravi danni alla pianura padana, che è già bellissima così com'è. Oltre che al ponte di Messina, poi ci entreremo un altro grande, ovviamente. Ma tu proprio ci stuzzi comunque per i temi dei temi di toccare. Sì, il ponte di Messina comunque basta impatto ambientale, e poi comunque non lo so, che si facesse comunque pure per provarlo, no? Magari un viaggetto, no, Pep? Con la tua Volkswagen. Non ho nessuna Volkswagen, non so cosa ti riferisci. Comunque, me la puoi anche regalare tu se vuoi una Volkswagen. Il ponte di Messina, che è utilissimo a collegare niente con il niente, giusto che in Calabria e in Sicilia non esistono autostrada. Intanto vediamo i fuochi d'artificio da un paese. Vediamo dei fuochi d'artificio in lontananza, che saranno sicuramente da un paese Brescia. No, oppure non lo so, dalla Sila si vedono questi fuochi. Questo ponte sullo stretto, la cosa più inutile che si potesse dire da più di 50 anni, penso che se ne stia parlando, di questo ponte, di fare un ponte sulla falda dove si incrociano la falda africana e quella europea, che sono la zona più attiva del Mediterraneo, dove ci sono stati in passato terremoti distruttivi. Sicuramente i nostri ingegneri sono bravi e lo faranno antisismico. Come l'Aquila, come l'Emilia Romagna, che sono state tutte costruzioni antisismiche. Infatti non è caduta nemmeno una in Italia. Mai, non ho mai saputo di un terremoto in Italia che ha distrutto qualcosa. Mai visto una cosa del genere. E la ricostruzione in Italia è velocissima. Ricordiamo le autostrade costruite in soli 7 giorni qui in Calabria. Gli ospedali ricostruiti subito, quelli di L'Aquila, già ognuno di loro ha una casa tutta nuova costruita da Berlusconi, mentre quelli dell'Emilia Romagna presto avranno una nuova casa costruita da Monti. Purtroppo queste persone ancora vivono nei container, vivono nelle tende, e hanno passato, penso che anche negli Irpini ancora vivono dentro dei container. Purtroppo queste persone devono vivere così perché il governo non ha ristrutturato le loro case, non ha ricostruito nulla, e sono costretti a passare l'inverno in questi posti freddi e l'estate nei container, che secondo me non sono il massimo. Un saluto a tutti, penso che nessuno ci stia ascoltando, comunque li salutiamo lo stesso. Comunque in Emilia Romagna c'è stato un ultimo caso che le case che non ha buttato giù il terremoto, ci ha pensato il comune ad abbatterle. È una proprietaria di una villetta dell'Ottocento, se non ricordo male, è stata buttata giù per delle piccolissime crepe che sono state considerate pericolosissime, e quindi la proprietaria è venuta a sapere tramite certe immagini dal TG, ovviamente. E insieme alla casa non hanno dato la possibilità nemmeno di cacciare dei valori pregiatissimi, dei mobili dell'Ottocento. Quindi purtroppo, nonostante il governo Monti, se non ci pensa il terremoto, ci pensa il governo Monti a buttare giù le case, ecco. Beh, diciamo che questo è il danno minimo che uno ha perso dei mobili dell'Ottocento. C'è gente che deve vivere in mezzo a una strada, e diciamo che quello secondo me è un prezzo maggiore da pagare. E Ciccio, tu sei favorevole ai terremoti? Come diceva il Tifibo, oh, terremoto! Beh, i terremoti è la natura, no? Natura uomo crea. Quando la natura si ribella, poi ti rendi davvero conto di quanto sei piccolo a confronto dell'ecosistema che vivi. Puoi costruire il miglior computer del mondo, la migliore macchina del mondo, il miglior palazzo del mondo, ma la natura è la nostra madre, tutto governa. Quando l'uomo aggredisce la natura con le sue costruzioni, comunque la natura si riprenderà prima o poi tutto quello che era suo. Troppo, Tony, come un problema, cioè, che viviamo giorno per giorno, quale l'ultimo caso che c'è stato, tipo anche l'alluvione a Messina, che comunque quando l'uomo va veramente a costruire in zone che è vietatissimo costruire, non è zona edificabile, comunque poi ci sono le tragedie, le stragi, e si incolpa magari la natura, il fiume che è arrivato lì. Se tu costruisci in un fiume, un giorno, prima o poi, succederà qualcosa. In alcuni casi non deve essere la legge a impedirti di costruire, ma proprio il buon senso. Come ti viene l'idea di costruire dentro il letto di un fiume, come di costruire sotto una montagna in cui sono stati tagliati tutti gli alberi? Perché la deforestazione è un problema serissimo. Se tu tagli tutti gli alberi, la montagna se ne scende. Gli alberi con le radici tengono la montagna anche. Sembra una cazzata, ma è veramente così. A proposito, se qualcuno ha problemi tipo di... No, di tipo di terreni che comunque che cedono, Clandestino Cid consiglia la coltivazione del bambù. Il bambù è un'ottima pianta che tiene saldo il terreno. Il terreno, certo. E se qualcuno ha bisogno di un po' di legna, partiamo noi che c'è un boschetto qua sopra che... lo disboschiamo pure noi, così alla fine... No, scherzo. Qui a Cosenza c'è stato anche il problema del Zompano, penso, no, a Cosenza, il cinema multisala che è stato costruito sotto la montagna che sta venendo giù, quindi non è bello costruire in questi posti. Ricordiamo alcuni paesi che sono tipo Maierato, Cavallerizzo, che è un paese del Brescia, che sono venuti tutti giù con la montagna a seguito di un'alluvione. Mandiamo il prossimo pezzo, direi. Un pezzo di Mina. Salutiamo Stella con un pezzo di Mina. Ancora. Gli ancora erano tre, ancora. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma a causa del governo Monti che ha tagliato anche lì, purtroppo gli ancora sono effetti due. Stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, ha importanza questo mio momento, perché io ti chiedo. Ancora le tue braccia, ancora di abbracciarmi. Ancora. chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora sul mio collo. Un elogio alla regina della musica italiana, Mina Mazzini. Incredibile, che voce, ragazzi. Si ritorna qui sotto le stelle, Clandestino Cid. Questa sera veramente è una puntata entusiasmante, spumeggiante, come dice Tony. Tanta cultura, non sapevo nulla dell'Albania. A volte un paese così vicino appunto a noi, oppure così lontano, come sei romantico, Tony. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti quelli che mi conoscono affettuosamente. Diciamo il classico saluto, tutti quelli che mi conoscono. Non vorrei sbagliarmi, ma l'Albania è il paese, diciamo, straniero più vicino alla Calabria, in linea d'aria. È più vicino della Grecia. Pure dell'Africa, più vicino all'Albania. Non mi risultava questo, è comunque una cosa nuova. Proprio da wow. Wow. Havana, pure tu uno wow ci sta. Wow. Vabbè, ho detto una grande cacata, non ne fregava nessuno, però volevo dirlo. possiamo... Andiamo avanti con Revolution dei Beatles. No, sto scherzando, Stella, non ce l'abbiamo Revolution dei Beatles. L'ascolti lo stesso. Un saluto alla mia carissima amica Alfreda di Mirto. Tanti saluti, che finalmente ci sta ascoltando dopo 2 ore di trasmissione. Era pure ora che intervenivi. Una mia amica, la vuoi salutare pure tu, Alessandra? Sicura che conosce la nostra altra amica albanese Malvina? No, secondo me non la... È di Mirto? E può essere che la conosce. Sicura, tra le... Sicuramente. Mi sembra che ora Ciccio voleva dare un'ultima notizia. L'ultima di Ciccio, vai. L'ultima notizia arriva dal Golfo Persico. Precamente... I nostri cuginetti americani hanno sparato a una barca di pescatori. Praticamente la flotta aveva ignorato l'avvertimento lanciato da Washington. Praticamente niente, si sono permessi di appunto affondare questa nave di pescatori tranquillamente. L'altra volta abbiamo lanciato la notizia del... di un soldato che in Afghanistan, tipo sotto, canticchiando Bye Bye American Pie, lanciava un siluro contro un civile. Oggi quest'altro. Dove arriverà l'America, Tony? Non lo so. Ma se non ricordo male, anche la guerra in Vietnam degli americani è stata causata dall'attacco di... l'attacco, diciamo, fantasma di una nave vietnamita nei confronti di una nave americana. Ma tutto ciò, alla luce, diciamo, alla distanza di decenni, è venuto fuori che questo attacco alla nave americana non è stato mai verificato, insomma. Tony storico. Tutte le varie storie dell'11 settembre, l'arciduca Francesco Ferdinando di Sarajevo, tutte quelle storie là che si raccontano nei libri di storia, che sono solo le scuse per cui... vabbè, la storia la racconta sempre vincitori, come dice Tony. Però dico, si narrano queste favolose scuse che in realtà la guerra non si genera da un omicidio di una persona, perché si vuole fare la guerra, se no queste guerre non vengono generate così da piccolezze come questo, un attacco a un peschereccio, un attacco non so a cosa. E purtroppo in questo secolo ne abbiamo vissute parecchie guerre, più del secolo precedente forse, d'altro poco. Sì, le guerre sono fatte apposta, una volta venivano fatte per la ricostruzione le guerre. Ogni volta che c'era un periodo di crisi si creava una guerra, così si inventava una guerra, così si distruggeva tutto e poi si ricostruiva. E la macchina della ricostruzione partiva, si ricostruivano le case, le fabbriche producevano e tutte queste belle cose che tra un poco secondo me succederà ancora, perché c'è troppa crisi, quindi ci vuole una bella guerra, dai, facciamola, cazzo, questa guerra, vai. Per il fatto è che comunque le fabbriche continuano a costruire armi su armi, quindi l'altro giorno parlavo con un ragazzo che tipo presta servizio qui militare al reggimento bersaglieri di Cosenza e mi diceva che in Afghanistan stesso sono stati i russi che hanno abbandonato le basi che avevano lì in Afghanistan lasciando le armi agli afghani. Comunque pensa a tutte le armi lasciate lì e quante altre ne hanno costruite. È un mercato che va avanti, purtroppo, tipo un computer, no? Va sempre avanti, quindi ci deve essere qualcuno che l'acquista. Un'altra piccola informazione è come tipo la crisi della Grecia, provocata perché la bella Merkel insieme a Sarkozy hanno costretto la Grecia a comprare le loro armi per combattere non si sa chi, non si sa cosa, ovviamente. Quindi, cioè, trascurando il debito che la Germania deve alla Grecia ancora. Eh sì, andiamo avanti così, con debiti su debiti, impoverendo chi purtroppo sta più male di noi. Beppe, andiamo avanti con il prossimo pezzo. Come diceva Antonio Albanese, il problema del debito non c'è, perché chiunque sa firmare un assegno in bianco può passare questo. Mandiamo una canzone grandissima, Antonio Albanese. Mandiamo un pezzo albanese, appunto, citando Antonio Albanese. La canzone si chiama Chiupilo per tutti. No, Das my Made, non so come si pronuncia. È il grande matrimonio. Ce-am mărit pe micul bar, Mișala când se të gjithë jemi shqita Sot kjo dasëm në bashkon Kem një gjuhe një zakon Kjo është dasëm e përbon Pokorisht e Fantastico, fantastico pezzo, dicevamo. Niente, Tony voleva ricordare una bella notizia riguardante l'Università della Calabria. Anzi, direi due. Una riguardante la più grande scoperta del secolo al CERN a Svizzera, che un gruppo di fisici dell'Unica l'hanno costruito, l'acceleratore che sta alla base di tutto l'esperimento, che appunto è stato realizzato appunto da questo gruppo dei nostri fisici all'Unical, e l'altra invece è la ragazza di Reggio Calabria che ha vinto questo stage alla BMW Italia, concorrendo appunto con altre 5 università dell'Italia. E appunto l'Unical con ingegneria gestionale l'ha spuntata, diciamo, nei confronti della Luiss di Roma o Bocconi di Milano e altre università. Quindi è un grande orgoglio la nostra Unical, ecco. Ma queste sigle che adesso sono delle università private, non sono università pubbliche, dove vanno i figli di papà, dove quelli che possono permetterselo. Quelli bravi, più bravi vanno all'università private, mentre i morti di fame vanno all'università pubblica, che negli ultimi anni è stata proprio martellata dai tagli. Invece queste università private vengono sempre ingozzate, diciamo, con il cucchiaino. Il cucchiaio di Pirlo è stato usato per imboccare queste università private. E queste università private praticamente sono sempre riempite di incentivi statali, e ovviamente che sono cacciati, insomma, le università invece pubbliche statali sono riempite invece solo di tagli alla ricerca, tagli dappertutto praticamente, dalle borse di studio, e ovviamente per un'ulteriore conseguenza appunto dell'aumento delle tasse, e noi povero ahimè non sapremo dove arriveremo fra qualche anno, ovviamente, se questa politica procede in questo senso, ecco. Bellissime cose queste qui. Non so se sei saputo della legge che è passata ora, che Monti ha stabilito che i fuori corso non usufruiranno del limite del 20%, mi sembra, dell'FFO. In pratica, per i fuori corso l'università può aumentare le tasse a dismisura. Non so se sapevi questa notizia. È una bellissima notizia che ti ha riempito la serata, secondo me. Ora puoi andare a letto contento, dopo che sai che, essendo fuori corso, anche tu, come tutti noi... No, io non sono più fuori corso. Vabbè, tra un poco lo sarò pure io. Lo sono stato. Presto i fuori corso riceveranno questo bellissimo regalo da parte del nostro governo. C'è una domanda da casa, dal pubblico da casa. chiedono ai nostri ospiti che tipo di musica ascoltano. Vabbè, diciamo, come musica, diciamo, ascolto un po' di tutto, dalle canzoni, diciamo, tradizionali albanesi, che ovviamente sono legato dal punto di vista patriottico, come musica italiana, mi piacciono il Grande Vasco, non si può, insomma, e anche Ligabue, ovviamente. Poi, come internazionale, musica anni 80, tipo, non so, Metallica, Guns N' Roses, Scorpions, insomma, qualche pezzo, diciamo, i grandi pezzi della musica che hanno fatto la storia della musica anni 80, non si possono escludere, ecco. Poi, musica commerciale, qualcosa così giusto per passare il tempo, o la radio, insomma, quello che decide Clandestino Cid, ovviamente. Che non è musica commerciale, ma musica clandestina. Malvina ci dice che non ci può ascoltare dal PC di Vana. Devo scaricare, non lo so, la salutiamo. Niente, Tony, sì, la musica comunque è importante. Una vecchia frase diceva che la musica, come l'arte e la poesia, è pane per lo spirito. Commentiamo questa frase con i nostri ospiti, prego. È vero questa cosa, che pane per lo spirito. C'è un'altra frase che adesso però mi sfugge, che una vita vissuta senza musica è una vita sbagliata, addirittura. Cioè, che, insomma, la musica è molto importante per, ovviamente, per il relax totale proprio dei sensi. E a proposito, ascoltiamo un altro pezzo. Che ne dici, Peppe? No, però vorrei sapere anche la tua su queste eterne frasi. È meglio un uovo oggi che una gallina domani. I'm sotto le note di Anouk, Peppe ci diceva che non si sposerà mai. Beh, punti di vista. Potresti andare a convivere, Peppe, no? Ma non è che non mi sposerà mai. È il fatto che... di più. No, no, scherzo, no. Il fatto è che per ora sono ancora giovane, è ancora molto da dare... Ho ancora molto da dare in giro per il mondo, quindi il matrimonio non è nei miei prossimi piani. Convivere, anche no, diciamo che ancora devo trovare la persona giusta. Quando la troverò può essere che poi cambia idea, però ora no. Diciamo un vero gentleman che prende e fa suo il concetto anche... citato da Rino Gaetano, beh, il sesso libero. Tone, tu? Diciamo che vabbè, sono rimasto un po' meravigliato da Peppe che dopo aver scoperto che un suo coetaneo ha già due figli, cioè, questo sono caduti pure quei pochi capelli rimasti. Peppe, ti suggerisco di trovare la persona giusta ancora prima che cadano tutti i capelli al 100%. Però il maschio velato è più virile, dicono molti, ma non lo so se è vero oppure no. Cioè, il suo fascino, diciamo che secondo me non ne ha tanto fascino, però si dice così, quindi crediamoci. Secondo te c'è il più fascino il maschio pelato o quello riccio? Non vuole parlare qui, vediamo Alessandra che dice. In Polonia c'è una frase che si dice "hop bez glacy nic nie znaczy" e significa che un maschio che ha capelli non significa proprio niente. Quindi Ciccio si deve tagliare i capelli a zero, stai dicendo. Ciccio, vedi che la tua ragazza dice che ti deve tagliare i capelli, no? Non gli piace il tuo riccio, forse. Per questo quando sono venuti tutti mi guardavano male. Vabbè, saranno punti di vista, non lo so. Io vorrei salutare Giuseppe Moraca da Pisa, che ieri sera ha avuto l'onore di seguire in anteprima il live di Rita Marley a Marina di Pisa. Mi ha chiamato, disgraziato, ti saluto. Tony, in Albania pure c'è qualche, non lo so, proverbio sulle persone calve? No? No, almeno quello che ricordo io non lo so. Può darsi che c'è, o magari sicuramente ci sarà, ma non lo so. Ma sbaglio, tipo, è portata tantissimo la moda dei baffi. Ma questo è più, vabbè, sì, nei Balcani una volta, diciamo. Adesso è rimasta questa tradizione comunque maggiormente in Turchia, che era, diciamo, una volta simbolo della virilità, che è l'uomo, quello che comanda, insomma, maschilismo, ecco, cioè la mentalità maschilista una volta era molto diffusa questa moda, ecco, ma ultimamente per quello che vedo, insomma, questa tradizione è andata comunque perdendo, perché comunque le società si evolvono, quindi per fortuna, ovviamente, però questa tradizione lo vedo che è rimasta abbastanza molto diffusa ancora in Turchia. Parecchi uomini, vedi, comunque con i baffi e con questa moda maschilista. Diciamo, Peppe, la potresti adottare anche tu, no? Io ce l'ho i baffi, infatti. C'ho baffi, barba, non ho i capelli, però... Vabbè, c'ho qualche capello, ce l'ho. Diciamo che ce l'ho dalla parte, di, invece di verso di sopra, ce l'ho da sotto, dalla faccia, i capelli. No, comunque anche in Calabria andavano molto di moda i baffi. In Sicilia, nel sud Italia, diciamo che era un simbolo mafioso, non lo so, si portavano. Molti miei zii ci hanno i baffi pure, quindi non penso... No, non volevo dire che erano mafiosi i miei zii, nel senso che molti ce l'hanno perché gli piacciono i baffi. Alla fine anche Freddie Mercury aveva i baffi. E beh, sei un razzista, Cicci. Sta parlando male di Freddie Mercury perché dice che gli piaceva nello stesso sesso. Freddie Mercury è comunque uno dei migliori cantanti della storia, della musica, dopo Demetro Stratos, secondo me è il migliore. Ciccio, tu perché non ti cresci il baffo invece di crescerti questi ricci? Secondo me avresti i baffi ricci tu. Proveremo. Comunque, Peppe, per il fatto che magari Tony diceva che il baffo era simbolo di virilità, magari Freddie Mercury, non lo so, ha distrutto questo concetto, l'ha fatto proprio su, l'ha distrutto. Tony, vorrei farci una domanda. Te, Havana, come avete, cioè, il problema mafia al sud, come viene inteso tipo in Albania? Cioè, se ne sente parlare? La mafia al sud in Albania, diciamo che, vabbè, la mafia è intesa più che al sud, è intesa come Italia, perché in generale, diciamo, perché è rimasta, cioè si sono creati quella, diciamo, quella mentalità, non quella mentalità, quella concezione, quella opinione dopo aver visto La Piovra, perché è stato un film molto famoso, insomma, non solo in Italia, quindi anche fuori. Per cui, diciamo, l'Italia è stata, diciamo, così un po' etichettata, però in particolare la mafia del sud no, perché comunque, diciamo, queste notizie, a meno che non siano quelle clamorose, quindi, vengono abbastanza trascurate, cioè non è molto, cioè, i media nostri non è molto, diciamo, focussata, ecco, nella zona del sud del meridionale dell'Italia, diciamo, per fenomeni. Più che altro è al massimo più parlare della Sicilia. Sì, diciamo, la mafia è associata come Sicilia, Cosa Nostra, La Piovra, ecco, tutto il film è, insomma, La Piovra, perché, insomma, che viene ricordato per questo. Mi fa piacere che si pensi alla mafia come La Piovra, come la ragazza che abbiamo avuto ospite l'altra volta dalla Polonia. Diceva che la mafia era bella perché aveva visto i film che parlavano di questi mafiosi come uomini d'onore, come cose. Ma in realtà la mafia è un problema che affligge la nostra società, specialmente il meridione d'Italia, come Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania. E diciamo che si sta diffondendo anche al nord, che la vogliono nascondere, questo fatto, ma anche nelle istituzioni del nord, nei vari locali, c'è molto riciclaggio di denaro sporco che viene sia da meridionali sia da gente del luogo. E la mafia, questa mafia che ne parliamo in un puntato, di mafia, che questa mafia si pensa sempre al... citando prima il nostro discorso, questo con i baffi, col cappello, con la coppola, che con la lupara, ma in realtà il mafioso non è così. Il mafioso sono, li vediamo tutti i giorni, sono i mafiosi, di mafiosi ne piene, sono piene le nostre istituzioni. Il voto di scambio è il primo simbolo di mafia, tu mi voti se io ti trovo un posto di lavoro, questo qui è proprio il simbolo della mafia. Tu, un altro cosa su cui è basata la mafia è l'omertà. Tutti stanno zitti quando vedono un omicidio, quando vedono qualsiasi cosa fatta da queste persone malavitose, e loro riescono a proliferare in questa situazione di paura, di omertà. Si paga il pizzo, e nessuno denuncia questo fatto. E... oltre a questo, io ho avuto fare più che altro dei ragazzi che ho conosciuto qua, che più che altro la mafia la vedono pure come una specie di protezione nei loro confronti, e ci sono dei ragazzi che si sentono pure abbastanza orgogliosi nell'avere accanto determinati soggetti. Questo è un altro grande problema, perché nel meridione d'Italia si sente poco vicino le istituzioni, diciamo, che non proteggono le popolazioni, ma in realtà ci vengono contro. Quindi la gente negli anni si è appoggiata a questi soggetti malavitosi che hanno fatto la legge dove c'erano delle ingiustizie. Però sono aspetti controversi questi qua. Vabbè, ricordiamo che all'epoca, tipo, le società delinquere sono nate proprio come società che difendevano i diritti del popolo, che comunque era oppresso dallo Stato, uno Stato che non c'era, uno Stato inefficiente. Comunque, sì, vabbè, venivano visti come comunque coloro che a livello di un paese governavano, diciamo, la gestione della legge era gestita da questi individui, no? Poi con il passare del tempo, comunque, anche perché ci sono state tante guerre di mafia e successione a livello di gerarchia, E dopo la seconda, se non sbaglio, negli anni 70, che comunque c'è stato il boom del traffico della droga, che comunque tutto ha cominciato a prendere un'altra piega fino ai giorni nostri. Ricordiamo che al giorno d'oggi la mafia non è più quella che uccide come anche negli anni 90, quando ci sono stati in Sicilia un sacco di omicidi, ma la mafia ha affari, diciamo. Ci prendi gli appalti, inserita c'è gli amici nei vari consigli regionali, provinciali dei nostri paesi e si inserisce in questi appalti proponendo dei prezzi vantaggiosissimi e poi mette cemento depotenziato, senza ferro, si costruiscono ponti, poi le strade vengono fatte piene di curve per entrare nel terreno dell'amico, così si espropria quel terreno che prima forse era un terreno di merda e si viene pagato fior di quattrini perché viene passato come terreno, chissà che tipo di terreno era. E infatti non possiamo notare dalle autostrade siciliane, quelle calabresi, che sono abbastanza rettilinee, tutte sembrano dei serpentoni perché dovevano passare in questi terreni di amici. Tu, essendo un ingegnere che studia queste cose, come la vedi questa situazione del cemento depotenziato, degli appalti? Diciamo che la mafia è abbastanza camaleontica, nel senso che si trasforma con l'evolvere dei tempi, quindi diciamo, se un tempo era molto grezza e molto, diciamo, vedeva solo nel suo piccolo, diciamo così, nel quartiere, ecco, al massimo a livello di paese, adesso cioè, prende dimensioni sempre più grandi, sempre più, diciamo, si modifica al secondo, insomma, delle situazioni che si presentano, delle opportunità di affari, perché la mafia parla sempre di affari, non, cioè, poi le stragi, le bombe, le estorsioni, tutte queste cose, cioè, succedono come una conseguenza di chi non paga o chi non si piega al volere della mafia, ecco. E quindi la mafia, cioè, tutto gira intorno ai soldi, tutto quello che produce, diciamo, a livello economico, per cui, cioè, è un cancro della società, purtroppo, che se non si combatte tutti uniti, uno, diciamo, come dire, anche il detto una rondine non porta la primavera, per cui, cioè, non può sconfiggere una persona sola, per cui, come insegnano i grandi giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cioè, in due soli non potevano sconfiggerlo, ovviamente, poi però c'erano arrivati abbastanza vicino, insomma, hanno scoperto grandi cose, anche se poi la morte di entrambi l'ha voluto non solo la mafia ma anche forze esterne, diciamo, a parte dello Stato, e purtroppo sono cose molto evidenti, però non si ha il coraggio di insomma, tutti lo sanno ma nessuno lo dice, ecco, quindi siamo in un paese abbastanza strano, definirei, insomma, quindi. Oltre che Falcone e Borsellino, citerei anche Peppino Impastato. Visto che tra pochi giorni ci sarà anche l'anniversario, appunto, dell'attentato di Via D'Amelio, ovviamente. Questi qua sono stati eroi, sono anche passati come eroi, però lo Stato oggi li celebra tutti i giorni, però quando c'era da proteggerli non li ha protetti. E quindi sono più che altro li ha uccisi proprio lei stesso, proprio lo Stato stesso. E oggi vengono celebrati come eroi dalle stesse istituzioni che sono stati i carnefici. Dopo questo argomento abbastanza pesante, manderei un pezzo di Wano Apes, Do The Lap. È uguale, mi sembrava francese spagnolo, scusate, ma era inglese. Yeah. siamo in chiusura di trasmissione, l'ultima puntata di questo straordinario luglio, che è sotto questo splendido cielo in cui non si vede nemmeno una stella grazie alle luci dell'unica della città di Cosenza. Ringraziamo le luci e l'inquinamento luminoso che ci fanno vedere questo splendido cielo senza una stella. E chiudiamo qui la nostra stagione di Clandestino dopo ben 9 puntate, dove abbiamo trattato e abbiamo incontrato ospiti da quasi da molte parti del mondo, come Spagna, Francia, Polonia, Albania, Guatemala, Burkina, Cina, Russia e Tunisia. No, l'ho detto già. Abbiamo toccato un po' tutti i continenti, quindi qua l'unica è bellissima l'integrazione che c'è con tutte le culture. Abbiamo ci manca il Sud America e l'Oceania, vabbè, però abbiamo Guatemala e Centro America, dai, non è Sud America. E comunque speriamo che quando riprenderemo a settembre incontreremo nuove esperienze e questo è tutto. Un saluto, ci rivediamo, noi e Cicci ce ne andiamo in vacanza. Quale vacanze, che ancora ci bisogna, io devo stare qui fino a fine mese, me ne vado ad agosto in vacanza. Ciccio, tu vuoi salutare i nostri ospiti, i nostri ascoltatori? Sì, vorrei salutare davvero tutti per la pazienza, e magari, non lo so, se è possibile spargere un po' la voce del Fuori Onda Radio e anche del programma Clandestino Cid. Prima ho salutato tutti gli ospiti che abbiamo avuto qui in radio. Stasera c'è Vanna e Tony e li saluto di cuore e li ringrazio per essere qui con noi. Un ringraziamento particolare va anche al Laboratorio Politico P2, che ci ha permesso di usufruire anche della linea internet, no? di un'uscita così. Va ribadito comunque il concetto della libera informazione, qualcosa che manca al giorno d'oggi e purtroppo non viene nemmeno ricercata a livello contemporaneo da chi comunque, cioè, non ha nemmeno la necessità di informarsi. Noi con la radio cerchiamo di sbarcare oltre, aprire le frontiere, non solo a livello logistico e locale, ma anche a livello di pensieri. Diciamo che citiamo l'open in your mind e lo facciamo nostro, il concetto dell'open your mind. Ringrazio tutti, ci vediamo a settembre, lascio la parola ai nostri ospiti, magari vogliono salutare qualcuno. Con una buona notte a tutti, ciao raga. Niente, ringrazio a grande Francesco che di questo invito bellissimo, che stasera davvero una bella serata. E mi sono divertito tantissimo, diciamo, in questa bella esperienza, e davvero grazie, ringrazio tutti e buona serata e buonanotte. Buonanotte. Ci sentiamo a settembre. Una buona estate a tutti voi. Ciao.